Va ora in onda Lucciole nelle tenebre, da un'idea del presidio universitario Libera Bologna. Alla riscossa stupidi che i fiumi sono in piena, potete stare a gara. Fragile, opulenta donna, matrice del paradiso, sei un granello di colpa anche agli occhi di Dio, malgrado le tue sante guerre per l'emancipazione. Spaccarono la tua bellezza e rimane uno scheletro d'amore, che però grida ancora vendetta, e soltanto tu riesci ancora a piangere. Poi ti volgi e vedi ancora i tuoi figli, poi ti volti e non sai ancora dire, e taci meravigliata. E allora diventi grande come la terra e innalzi il tuo canto d'amore. E dopo queste splendide parole di Alda Merini, che il nostro Stefano ci ha gentilmente letto, ciao Stefano. Ciao. Eccoci qui per questa nuova puntata. Io sono Ilaria. Io sono Valentina. E Eleonora. Di cosa parliamo? Oggi parliamo del rapporto tra le donne e la mafia. Allora, noi sappiamo che la società mafiosa è una società fondamentalmente molto maschilista, basata sulla virilità intesa come forza, violenza e prevaricazione. Tuttavia, anche in questa società le donne hanno un loro ruolo molto importante, cioè quello di essere custodi dell'etica mafiosa, di essere le spose, le figlie, le madri silenziose che sostengono i loro uomini, che hanno anche il compito di crescere i figli secondo una determinata mentalità. Le donne di mafia però hanno vari ruoli differenti tra loro. Troviamo in particolar modo le donne devote, che sono le donne che hanno un ruolo più familiare, ma anche le donne d'onore, che sono più attive all'interno della società. Partiamo dalle donne devote. Le donne devote sono, come ha detto Ele, donne che sono molto attaccate alla loro famiglia, silenziose e premurose, e tutte dedite a mantenere lo status che il loro uomo ha creato nel clan, perché questo status viene loro trasferito. Un caso che ci ha infatti particolarmente colpito è il caso di Vincenzina Marchese, moglie di Loluca Bagarella. Questo si può considerare come un matrimonio d'amore, a differenza dei soliti matrimoni combinati che avvenivano all'interno del clan mafioso. Ma poche settimane dopo il matrimonio la donna viene colpita nel suo status di donna mafiosa, perché il suo fratello Pino Marchese incomincia a collaborare con i magistrati. La donna allora, per evitare che il marito amato fosse classificato come infame perché parente di un pentito, addirittura si suicida. E sebbene alle donne non sia ufficialmente permesso l'accesso ai vertici delle famiglie mafiose, vediamo che con gli anni anche all'interno di queste famiglie stanno assumendo sempre di più un ruolo di spicco, e non soltanto come semplici spacciatrici piuttosto che corrieri droga, quindi un ruolo, diciamo, strumentale e funzionale a quello che da sempre è il potere impartito lì dal boss, dal marito, più che figure maschili. E quindi vediamo che possiamo vedere come si stia costruendo anche un'immagine di donna d'onore accanto a quella invece da sempre dell'uomo d'onore mafioso. Parliamo di lady boss anche molto spesso. Infatti, ragazzi, non scordiamoci il caso titolato sui giornali come nonna eroina. Carina, nonna eroina. Era Angela Russo, una vecchietta che sembrava tanto carina, ma in realtà sotto sotto gestiva in prima persona il traffico di droga con alcuni familiari che stavano in America. Hai capito la nonna? Hai capito. E un altro caso che invece ci ha colpito molto, e possiamo dire che forse questa è stata la prima donna capo mafia della storia, è quello di Giusy Vitale, che prende il ruolo appunto dei fratelli una volta che questi sono stati presi, e lei assume proprio il comando di tutti gli affari appunto della famiglia, tant'è vero che lei è una donna di fatto, però si parla anche del fatto che nascose la sua femminilità proprio perché ormai si sentiva così dentro era diventato un mezzo uomo. Ma insomma, allora sti mafiosi sono persone, sono brave persone, fanno emancipare le donne. Ma questa è la vera emancipazione? No, le cose non stanno sempre così. Le donne, infatti, sono anche state capaci di ribellarsi a questo sistema e di imporsi. E sulle note di David Bowie con Rebel, Rebel, cercheremo di raccontarvi un po' la loro storia. We'll be right back. Borsellino, Michela Buscemi, Rita Atria. Che cosa hanno in comune queste tre donne? Queste donne sono tutte accomunate dal fatto di essersi ribellate alla logica dell'omertà e del silenzio. Sono donne che possiamo definire ribelli, che hanno avuto il coraggio di rivendicare il loro diritto a parlare e a opporsi alla logica mafiosa. È molto importante il ruolo di queste donne che hanno saputo dire no, proprio perché sono quelle che, pur nel silenzio, hanno molto spesso la possibilità di capire meglio le intrinseche logiche mafiose. Falcone, per esempio, fu il primo ad accorgersi dell'importanza che poteva avere ascoltare le testimonianze di tutte queste donne. Che poi apriamo una parentesi su Falcone e specialmente sulla moglie Francesca Morvillo, che perse la vita con lui. Lei era una donna magistrato, non dimentichiamoci questo, molto spesso passa inosservato. Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. E la donna mafiosa infatti incarna i valori della sua famiglia. Spesso è stata costretta a sopportare il silenzio, i lutti, le tragedie e il sangue versato dai propri cari. Quindi si può dire che è su di lei che hanno le maggiori ripercussioni delle tragedie che avvengono nella mafia. La prima donna che a rompere il muro dell'omertà fu Serafina Battaglia, che nel 1962 prese coraggio e decise di denunciare gli assassini di suo marito e di suo figlio Salvatore. E direi curioso perché aggiunse una frase molto significativa, soprattutto se si pensa che nel 1962 per la giustizia italiana la mafia ancora non esisteva. Se le donne dei morti ammazzati si decidessero a parlare come faccio io, non per sete di vendetta o per odio, ma per sete di giustizia, la mafia in Sicilia non esisterebbe più da un pezzo. Altra donna ribelle, tre volte ribelle, è Vittoria Giunti, che mi piace ricordare perché innanzitutto lei fu il primo sindaco donna della Sicilia, in un paesino in Sicilia, Santa Elisabetta, dirigente del Partito Comunista Italiano, partigiana, che partecipò anche durante la Costituente come membra di una commissione per dare il voto alle donne. Innanzitutto lei combatté tre resistenze ed è per questo che è bello ricordarla: combatté contro il nazifascismo, quindi ebbe un ruolo attivo anche all'interno del movimento resistenziale, combatté contro il potere feudale siciliano e soprattutto combatté contro il potere mafioso in Sicilia. Ed è grazie a lei, infatti, a 80 anni ormai inoltrati, che accanto ai ragazzi di Raffadali incentivò questi che volevano, non volevano piegarsi di fronte alla mafia, allo strapotere mafioso, a combattere apertamente contro di questi, a fondare un giornale che esiste tuttora, ovvero il giornale Ad Est. Altra donna che va ricordata, grande donna, senza avere alle spalle nessun grande uomo, ma da sola. Un'altra donna più contemporanea a noi, diciamo, di cui vorremmo parlare è Rosaria Capacchione, giornalista del Mattino di Napoli, che ha cominciato a lavorare a Caserta negli anni 80 occupandosi di cronaca nera, ma che è stata conosciuta conosciuta in realtà soltanto nel momento in cui ha cominciato a ricevere serie minacce, perché si era occupata del clan dei Casalesi e aveva monitorato, diciamo, le vicende del processo Spartacus contro la Camorra, e proprio quindi nel 2008 aveva cominciato a ricevere grandissime minacce insieme anche a Saviano, e proprio per questo l'abbiamo conosciuta. Ah, è una donna che ha un grande coraggio e quindi insomma vorremmo includerla tra le nostre donne ribelli. È giusto, sì. Ma tra le altre donne ci sono anche le donne che sostengono i ribelli, cioè quelle che hanno appoggiato ad esempio i loro figli e i loro parenti. Ricordiamoci ad esempio di Felicia, la mamma di Peppino Impastato, di Saveria, la mamma di Roberto Antiochia, e noi siamo andate a sentire direttamente una di queste donne, Mara Fonti, la mamma di Giovanni Tizia. Ma prima una canzone di Fabrizio De André, Il re fa rullare i tamburi. Il re fa rullare i tamburi, il re fa rullare i tamburi, vuol scegliere fra le dame un nuovo e fresco amore, ed è la prima che ha veduto che gli ha rapito il cuore. Marchese, la conosci tu? Marchese, la conosci tu? Chi è quella graziosa? Ed il marchese disse al re: maestà, è la mia sposa. Tu sei più felice di me, tu sei più felice di me, d'aver dama sì bella, signora sì compita, se tu vorrai cederla a me, sarà la favorita. Signore, se non foste il re, signore, se non foste il re, v'intimerei prudenza, ma siete il sire, siete il re, vi devo l'obbedienza. Marchese, vedrai, passerà, marchese, vedrai, passerà, d'amor la sofferenza, io ti farò nelle mie armate maresciallo di Francia. Addio per sempre mia gioia, addio per sempre mia bella, addio dolce amore, devi lasciarmi per il re, ed io ti lascio il cuore. La regina ha raccolto dei fiori, la regina ha raccolto dei fiori, celando la sua offesa, ed il profumo di quei fiori ha ucciso la marchesa. Ciao Mara, noi siamo qui per conoscere un po' la tua storia. Intanto volevamo chiederti come è cambiata la tua vita dopo il trasferimento qui in Emilia. La mia storia somiglia a tutte le storie dei familiari delle vittime innocenti delle mafie. È una storia che comincia in Calabria, dove papà aveva una fabbrica che viene distrutta da un incendio la notte del 22 luglio 1988. Noi abbiamo cercato di portare avanti, nonostante le difficoltà economiche, la fabbrica, fino a quando poi l'anno dopo, il 23 ottobre, non viene assassinato Peppe Tiziana, che era mio marito e papà di Giovanni. Dopo questo assassinio, per il quale non abbiamo mai avuto giustizia, per il quale non sono mai state portate avanti delle indagini soddisfacenti, per il quale non c'è mai stata verità, dopo l'assassinio, dopo un anno e mezzo circa, quando avviene l'archiviazione, Anche noi come fabbrica consegniamo i nostri libri in tribunale e quindi viene dichiarato il fallimento. A quel punto decidiamo di partire perché è l'unica soluzione nel 1991 che ci veniva offerta per continuare ad essere onesti e per continuare a credere in quello che facevamo era lasciare la Calabria. Abbiamo lasciato la Calabria, siamo arrivati in Emilia e qui abbiamo provato a ricominciare a vivere nella normalità. La mia vita dopo il trasferimento, anzi la nostra vita, perché quando parlo di me parlo di Giovanni, la nostra vita è cambiata non più di tanto quando siamo arrivati in Emilia, nel senso che la memoria che sentivamo di dover coltivare l'abbiamo coltivata solo in maniera intima. Fino a quando Giovanni, ormai ventenne, non ci ha dato il lascia passare per tentare di rendere questa memoria condivisa. Cioè Giovanni infatti fino a 20 anni non amava parlare di suo padre, lo teneva dentro e faceva il possibile per evitare di affrontare il problema. Quando poi lui ha preso consapevolezza, allora ci siamo mossi, prima di tutto chiedendo le carte, il fascicolo, riguardando le carte, e abbiamo incontrato Don Luigi Ciotti, gli amici di Da Sud. La nostra storia cambia nel momento in cui avviene l'incontro con una parte di persone, con una parte dell'Italia che ha voglia di condividere la nostra storia. Nell'incontro con questo mondo che ha scelto di vivere in modo responsabile e che vuole farsi carico di una memoria collettiva. E per quanto riguarda il lavoro che svolge attualmente Giovanni, sei sempre riuscita a sostenerlo o hai avuto dubbi sulla sua possibilità di cambiare le cose? L'ho sempre sostenuto perché mi sono resa conto, nonostante la consapevolezza che era un mestiere difficile, che si trattava di un mestiere difficile e che si trattava di un impegno che avrebbe messo a dura prova anche la sicurezza, avevo intuito che non poteva fare altro. Ognuno di noi ha delle missioni, anche se la sua non è una missione, è una scelta semplicemente di lavoro. Però avevo intuito che lui non poteva fare altro. E tutto sommato devo dire la verità, che ero anche contenta perché è un lavoro che mi è sempre piaciuto, quindi ha semplicemente portato avanti quello che era un mio desiderio. Sono stata forse un po' incosciente, qualcuno me lo dice sicuramente, però credo nel momento in cui sono arrivate le minacce, che a dire il vero non mi aspettavo e che mi hanno parecchio scioccata, non sono riuscita a mettermi di traverso nella vita e nelle scelte professionali di Giovanni, perché credo che la vita si può togliere in tanti modi e ad un figlio la vita gliela puoi togliere anche ostacolandolo, impedendogli di essere quello che desidera essere, e quindi ho preferito stargli al fianco piuttosto che mettermi contro. E invece per quanto riguarda il tuo lavoro di insegnante, quanto riesci a trasmettere nel tuo lavoro appunto i valori dell'antimafia? È fondamentale per me trasmettere i valori sia dell'antimafia sia tutti gli altri valori, altrimenti non riuscirei ad entrare in classe. Invece entro ogni giorno in classe, magari un po' stanca, ma piena di entusiasmo, perché so che dall'incontro con i miei studenti nascono nuove opportunità per me, nuove opportunità nel senso che cresco con loro. Io riesco perfettamente ad integrare le due cose e ho trovato un modo elementare per farlo, cioè inserire nel mio programma pagine di antimafia, film di antimafia. E per finire volevamo chiederti, visto anche tutto quello che fai, insomma, quanto pensi che sia oggi la consapevolezza delle mafie sul territorio, tra la società civile, soprattutto emiliana, eccetera? Credo che ci sia ancora tanto da fare. Gli ultimi articoli sul terremoto, sulla ricostruzione, sulle infiltrazioni, sui tentativi e sulle infiltrazioni delle mafie nella ricostruzione sono cose evidenti. Ancora la società emiliana rimane perplessa. Come se il pericolo venisse da fuori e invece bisogna arrivare alla costruzione di una consapevolezza

sfido il mestiere, sono un eroe. Straordinario tutte le sere, sono un eroe. E te lo faccio vedere, ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere. E direttamente dalla cantina del tecnico siamo giunti ai saluti. Ebbene sì, dobbiamo ringraziare una persona importante, Giovanni Gandolfi, perché senza di lui questa puntata non si sarebbe fatta. Spot! Tan tan tan tan! Siete tutti invitati sabato 16 marzo 2013 alla manifestazione nazionale di Libera. Ragazzi, ci sono i pullman! A un orario impossibile, le 6 del mattino, però ci possiamo alzare. Non mi alzerò mai. Firenze! Fino ai 25 anni costa 10 euro. Oltre 25, 15 euro! Non mancate! Informazioni e prenotazioni emilia-romagna@libera.it oppure telefono 051 22 83 90. Mi raccomando, partecipate numerosi! E non mancate! L'unione fa la forza! Tan tan tan tan! Donne di mafia, ribellatevi, rompete le catene, tornate alla vita, sangue chiama sangue, vendetta chiama vendetta, basta con questa spirale senza fine, lasciate che Palermo rifiorisca sotto una nuova luce, nel segno dell'amore di Dio, lasciate che i vostri figli crescano secondo principi sani, capaci di esaltare quanto di bello c'è nel mondo. Filippa Spatola.